Quando è che ho scoperto che stavo facendo lo psicanalista della mia fidanzata? Quando lei ha smesso di parlare di noi e ha iniziato a parlare di Lynn. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti in punto. È martedì 17 maggio 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Ci sono poche persone che invidio, ma ce ne sono. E una di loro è Gigi Garanzini. Sì, io vorrei essere Gigi Garanzini. Lui lo sa, Gliel'ho detto e quindi l'imbarazzo ormai è rotto. Gigi Garanzini è un signore distinto. È un signore elegante, garbato e competente. Ha l'aspetto di un lord inglese e la pelle scura come quella di un marinaio. Non dice mai una parola fuori luogo. Quando io arrivo in radio, lui è già immerso nella lettura dei giornali. Ha la scrivania in uno dei posti più prestigiosi, vicino al vetro. E tutti hanno una grandissima considerazione di lui. E poi soprattutto il suo mestiere è parlare di calcio. Lo fa con una classe che ormai è conclamata. Anche qui in radio chiunque voglia avere un parere sportivo passa davanti alla sua scrivania e gli butta lì una battuta. Lui, anche se magari è un po' infastidito, non lo dà mai a vedere e risponde sempre con cordialità. L'unica volta nella mia vita in cui io ho chiamato un programma radiofonico per intervenire in diretta al telefono fu a Tempo di Sport, qualche anno fa, per parlare della meravigliosa inutilità calcistica di Juan Sebastian Verón. E ricordo ancora l'emozione nel parlare al telefono con lui. Sì, la persona che invidio è Gigi Garanzini. Anzi, forse il mio prossimo programma lo chiamerò Essere Gigi Garanzini. I messaggi che mi sono arrivati sul profilo Facebook oggi che parlano di invidia dicono che l'invidia è una cosa brutta, che non bisogna essere invidiosi, però dai, alla fine è inutile far finta di niente. Ci sono delle persone che ci piacciono più di noi e se quelle persone possono insegnarci qualcosa, allora vale tutto, vale anche essere invidiosi. Se siete invidiosi di un vostro parente, di un vostro amico, di un vostro collega, se voi avete voglia di essere quella persona lì, se sapete spiegare bene il motivo di questa invidia, se l'avete elaborata, se non ve ne vergognate e volete raccontarmela, io sono qui. E il mio numero è lo stesso che usate per chiamare Gigi Garanzini, è 800240024 e l'SMS è 349-238-6666. Per concludere ricordo anche che quando entro da lunedì al giovedì in studio dopo Gigi Garanzini, il microfono e le cuffie profumano sempre di quel buon sapore di dopo barba che solo un uomo del Piemonte della sua età sa usare. 800240024, riferimenti, tipo modelli, semplicemente persone, ma persone famose o no, valgono le persone vicine di casa, valgono i parenti, i colleghi, persone che in qualche modo vi provocano invidia. Per cui ammettetelo anche voi stessi, è quasi sano, è quasi liberatorio. Sì, io vorrei essere il mio vicino di banco, il mio collega dell'ufficio di fianco, perché è elegante, perché non suda mai, perché sa sempre dire le cose giuste al momento giusto. Pascal, ad esempio, mi scrive: io vorrei essere Adam Ondra. È un po' come dire Messi, ma tant'è. Traduco questo messaggio perché mi sono informato, ovviamente, sembro scemo. Ma Adam Ondra è un free climber, il miglior free climber che c'è in giro in questo momento. È un ragazzino, credo che abbia attorno ai 20 anni. Ci sono delle immagini e dei video che fanno paura. E Pascal, dal suo profilo Facebook, andate a vederlo, è chiaramente una persona che arrampica in montagna. Alessia, io invidio tutte le persone che hanno la fede. Chi crede in Dio ha una marcia in più. Ecco, credo che in realtà non sia così facile, Alessia, credere in Dio. Credo che ci voglia del lavoro per farlo e quindi insomma con le persone credo che ci arrivino in un modo o nell'altro. Giulia mi scrive un messaggio che è molto ben elaborato. Io ho sempre invidiato Gioia, la mia amica del cuore, perché era bellissima da ragazzina e oggi lo è ancora di più, perché è diventata dirigente nella società in cui lavora mentre io sono ancora impiegata, perché vive in una bellissima casa e con i suoi soldi si è sempre fatta dei grandi viaggi con marito o fidanzati, perché riesce a permettersi una babysitter di giorno e una per la sera. E quindi per sentirci al telefono dobbiamo prima metterci d'accordo, perché lei, pur avendo il figlio piccolo, va sempre fuori cena. Non le invidio il marito, il quale, pur essendo lei bella, colta, intelligente, simpatica e buona, non fa altro che guardarsi intorno, ma questa, ahimè, è la dura legge non so che cosa, del marito, probabilmente. 800240024, se invidiate qualcuno e avete il coraggio e la voglia, soprattutto, di raccontarla, Cilla che credo sia un nome inventato, invidia Franca Sozzani. Chi è Franca Sozzani? È quella di Vogue, giusto? È quella di Vogue. Ok, perfetto. È quella di Vogue. Questa, io ho capito chi è questa qua. È una magra che fa moda, Franca Sozzani. Una volta l'ho sentito dire ad un'intervista, ad una domanda dell'intervistatrice che era: ma voi mangiate sempre così poco? Ad esempio, lei è così magra. Quando è stata l'ultima volta che ha mangiato un tiramisù? E lei ha risposto: credo di non avere mai mangiato un tiramisù. 800240024. Chiara, io invidio Juliette Binoche perché ha un viso e uno sguardo di una bellezza disarmanti. Ugo, eccolo qua Ugo, bravo. Io vorrei essere il mio amico Davide. È bello, magro, atletico, come lo ero io anni fa, tra parentesi, e c'è subito la mestizia. È single, viaggia molto per lavoro, guadagna bene, fa un sacco di cose e non ha scocciature. 800240024. Prima di copiare i messaggi, chiedo a Viola la prossima volta di pulirli, perché altrimenti poi dico parole tipo trombare in onda. 349-238-6666 per chiamare, per mandare un SMS. Però prima Viola mi ha stampato una cosa magnifica, perché l'altro giorno parlavamo, a proposito dell'invidia, dei 7 peccati capitali, perché l'invidia è uno dei 7 peccati capitali, giusto? Dei 3 peccati capitali. È il terzo, sono 7. Viola, conosco due cose, non mettermi in crisi. I peccati capitali sono l'accidia, la lussuria, la gola, l'ira, l'invidia, l'intemperanza, che credo sia la stessa cosa dell'ira, forse. Me ne manca uno e mezzo. Accidia, lussuria, gola, invidia, ira. 349-238-6666. Comunque questa è la storia, ve la dico velocemente, è presa dalla Genesi, dal libro della Genesi, e parla di Giuseppe, figlio di Giacobbe. In sostanza qual è la storia? Giuseppe è il figlio più giovane di Giacobbe. Giacobbe lo ha avuto in età adulta, quindi è il figlio che ama di più. Questo, diciamo, dà un po' fastidio agli altri figli. Questo Giuseppe però non è sveglissimo, perché già si accorge che gli altri non sta molto simpatico agli altri. In più lui racconta i sogni che fa, e i sogni sono: noi stavamo legando i covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alza, resta dritto e i vostri covoni vengono intorno e si prostrano davanti al mio. Tu capirai che non è. Oppure, e ancora, ho fatto un sogno: il sole, la luna e 11 stelle si prostravano davanti a me. Giuseppe. Quindi i suoi fratelli sono invidiosi. Un giorno vanno in campagna, pigliano Giuseppe e lo buttano in un pozzo. Giuseppe viene raccolto da, ve lo dico subito, viene raccolto da dei passanti che lo vendono agli ismaeliti. Quando tornano a casa, i fratelli pigliano la veste che il padre Giacobbe aveva fatto fare apposta per il figlio Giuseppe, che era il preferito, e la sporcano col sangue di un vitello e gli dicono: l'abbiamo trovata, prova a vedere tu se sì o no la tunica di tuo figlio. Carini, eh? Questa è l'invidia, oppure sì, oppure una parte di mafia anche. 349-238-6666, 800240024. Oggi si parla di invidia per questo motivo. A Tbilisi oggi la minima è stata di 8 gradi e la massima di 18. È una bella giornata primaverile. Come lo so? Me l'ha scritto Nathalie. Da quando è laggiù ovviamente non ci vediamo, ma la nostra relazione non potrei dire che sia diminuita di intensità. Siamo ancora una bella coppia, solo che non parliamo di persona. Ci scriviamo. Sì, ci sarebbe Skype, ma la connessione da lei è pessima e non riusciamo quasi mai a tenere una conversazione decente. Quindi preferiamo qualche rara telefonata a spese delle ONG e soprattutto le mail. In fondo è uno dei tanti modi di comunicare. Chi non ha il senso dell'udito non vuol dire che debba avere un sentimento meno intenso, no? Quando non puoi usare un canale per comunicare con un'altra persona, ne usi un altro. Succede così. Si chiama compensazione e fa sì che tutti gli esseri umani siano diversi l'uno dall'altro e cambino continuamente, perché cambiano le condizioni delle cose intorno a lui. Ecco, io e Nathalie ci scriviamo spessissimo e ci inviamo anche fotografie tramite Facebook. Per farlo abbiamo aperto due account paralleli e ognuno di noi ha un solo amico, io a lei e lei a me. Abbiamo usato dei nomi inventati e quindi non ve li posso dire, però ci divertiamo molto. Lei mi racconta cosa fa e come sta e io ricambio con la mia routine solita. Ci diciamo quanto ci manchiamo e le cose che faremo quando ci rivedremo. Poi lei mi mostra le immagini di dove lavora, dei suoi colleghi, e io le dico cosa succede a Milano e cosa fanno i nostri amici e qualche pettegolezzo. Nelle ultime due settimane però io sento che sta esaurendo un po' la mia vena delle cose da raccontare. Cioè, non è che non sappia più cosa dire, Però mi rendo conto che in questa strana conversazione scritta è più spesso lei che parla. E io ascolto. Che va anche bene, perché in fondo è lei che sta facendo un'esperienza del tutto nuovo, però... insomma, non lo so. E poi, siccome mi parla di persone che non conosco, a volte mi sento un po' tagliato fuori. Ecco, in questi giorni, ad esempio, lei mi parla di Lynn. Lynn è una sua collega inglese, che le sta antipatica. Che siccome non la conosco, come faccio a sapere cosa dire? Io le dico che comunque sia sono sempre dalla sua parte, ovviamente, ma più di questo non posso dire, sarebbe una bugia. Secondo me di questi tempi mi sta usando un po' come sfogo. E non so se invece legge veramente tutte le cose che le scrivo, le mie recuperazioni. Credo che sia solo rassicurata dal fatto che sia io ad ascoltare lei. Forse mi sta usando un po' come i pazienti del dottor Salvati usano il loro terapeuta. Ecco, forse in questi giorni sono proprio diventato una specie di psicologo. Gratis. Quando ha scoperto che stavo facendo lo psicanalista della mia fidanzata? L'ho scoperto quando ha smesso di parlare di noi e ha iniziato a parlarmi di Lynn. Ora, Lynn è una ragazza di Londra che però, siccome è un nonno di Glasgow, dice di essere scozzese. Lynn lavora per il Civil Service britannico, cioè in poche parole fa la diplomatica. In Inghilterra chi lavora per il governo, che faccia il politico o l'amministrativo, lavora per quello che loro chiamano servizio civile, civil service appunto. Perché lì intendono quei mestieri come una missione al servizio del cittadino. E allora Lynn, dopo essersi laureata a Cambridge in storia dell'arte, ha deciso di occuparsi di diplomazia, di relazioni internazionali. È un po' come aveva fatto Natalie. Però lei ha iniziato una carriera più prestigiosa, ma non chiedetemi di ripetere tutti i passaggi perché non li ho capiti manco io. Natalie me li ha spiegati, ma non saprei ripeterveli. Quello che è chiaro è che Lynn e Natalie hanno quasi la stessa età, ma una ricopre un incarico più prestigioso dell'altra. E non è la mia fidanzata. A me non interessa ovviamente, ma a lei sì, e anche molto. Nella mail di oggi si è proprio sfogata. Mi ha mandato una foto dell'inglese che tra parentesi ha anche il difetto di assomigliare lontanamente a Kate Moss. La mail di Natalie era molto lunga, ma finisce così. Vi leggo testualmente. E poi Lynn è sempre gentile e carina, anche con noi che siamo appena arrivati. Questo mi disarma e tu lo sai come ci rimango quando qualcuno mi fa sentire inferiore, ma non lo fa apposta. Mi fa arrabbiare. Però poi la rabbia mi rimane dentro perché non la posso sfogare. E allora sai cosa ho fatto, Matteo? Ieri sera sono andata da lei e le ho detto quello che pensavo. Che ero contenta che lei fosse così intelligente e preparata e che avrei potuto imparare tanto da lei, ma siccome parlava con quell'accento così londinese, non si capiva niente di quello che diceva. E che avrebbe dovuto parlare un po' più piano se avesse voluto davvero che fossimo un team, come dice lei. E lei cosa ha fatto? Si è scusata. Si è scusata tantissimo, che non voleva assolutamente tagliarci fuori, che anzi, lei parlava così proprio perché noi, e io in particolare, abbiamo un inglese perfetto e non si accorgeva nemmeno che non fossi madrelingua. E così mi ha fatto anche un complimento e mi ha messo in imbarazzo. Io mi sono messa a piangere e lei mi ha consolata. Insomma, io le volevo dire che mi stava antipatica e lei mi ha dato coraggio. E proprio in quella situazione paradossale ho capito che cosa aveva Lynn che non andava. Lynn era quello che avrei voluto essere io. E il suo problema era un mio problema. Il suo problema era che io sono una persona invidiosa. E fino ad oggi sono stata invidiosa anche di lei. Perché è di Londra, perché è bellissima, perché non se la tira ed è simpatica, perché si è laureata a Cambridge, è brava nel suo lavoro, è una persona per bene e sa perfino cucinare. L'invidia è una cosa brutta, che ti fa stare male, quando invece gli altri sono felici. Io non lo faccio apposta, e inoltre è anche una sofferenza. Ma ad oggi voglio cambiare, e quindi ho detto a Lynn che mi stava sulle palle. Ma perché sbaglio, e l'invidia è una malattia da cui voglio guarire. Lei mi ha detto che era una cosa molto matura, quella che le avevo confessato, e che mi rispettava molto. Ci siamo abbracciate, abbiamo mangiato insieme e mi ha anche chiesto se posso seguirla nella missione che settimana prossima farà nel Daghestan. E sai com'è finita? Siamo amiche. Matteo, guarda, tu non puoi capire quanto questo mi faccia stare bene. E poi ci sei tu, che mi ascolti sempre e che mi capisci. Perché dovrei essere invidiosa di qualcuno? Sono la donna più fortunata che c'è. Ti abbraccio forte. Nathalie. Ecco, dopo aver letto questa mail ho capito che assomigliava tanto a una di quelle storie raccontate dai pazienti del dottor Salvati a lui, e che l'unica differenza è che questa era indirizzata a me. Io non sono particolarmente invidioso, a parte Garanzini. Non so esattamente cosa sia questo sentimento. Io sono più che altro uno malinconico, che è diverso. Io vorrei avere adesso 8 anni e cominciare a giocare a tennis tutti i giorni, tutto il giorno, e a forza di allenamenti diventare come Nadal, o come Djokovic, meglio. Ecco, vorrei questo. Ma non sono invidioso di lui, eh? No, io sto messo peggio. Io voglio l'impossibile. Nathalie invece mi sembra una persona sostanzialmente sana e fortunata, perché è uno psicanalista come me, eppure gratis. Intanto lasciatemi dire Joy Division, io sono qui grazie a Tiziano Bonini e basta, solo a lui. Mi sarebbe piaciuto dire anche Fabio Cantadori, però Fabio ha solo alzato il cursore, quindi in questo caso grazie a Tiziano Bonini. Allora ragazzi, avete forse le idee meno chiare di me sui 7 peccati capitali, perché abbiamo scoperto che oltre a accidia, lussuria, gola, invidia e intemperanza, qualcuno ha scritto vendetta. Ma vendetta, ma cos'è? La vendetta fa parte di... E poi Diego ha scritto pigrizia. Ora, la pigrizia sia uno dei 7 peccati capitali è bello immaginarlo, però temo di no. E invece sono l'avarizia e la superbia. Ringraziamo sempre Viola, che è un po' la teologa della redazione di Io Sono Qui. No? È un po' il Google della redazione, banalmente. Ah, c'ha un computer davanti, va su Google. Non per sminuire il lavoro della nostra stagista, che è forse la migliore stagista che sia mai stata. Te l'ho già detto, Viola. Lo dico sempre. Io invidio il marito della sorella di mia moglie, perché amo mia cognata, così potrei stare con lei. Gabriele, fai qualcosa. Invidio mio padre e la sua generazione, Riccardo, 37 anni. Io invidio, questo è il mio messaggio preferito, io invidio il mio cane, proprio per la vita da cane che conduce. Michele, io invidio chi si abbuffa di anguria, a me non piace, ma è un piacere vedere le persone alle prese con fette colossali. Vittorio, fai qualcosa anche tu, perché mi sa che è complicata la vita. Andiamo, Paolo da Milano. Vorrei avere la faccia tosta di quella gente della tributaria che mi ha chiesto una ricevuta fiscale del pranzo gonfiata per intascare la differenza. Pronto Paolo? Sì, pronto, ciao. Ciao, grazie per essere qui. Quando è successa questa cosa? Com'è andata? Una decina di giorni fa, praticamente, si sono presentati questi due agenti dicendomi che erano dell'amministrazione pubblica e mi chiedevano, visto che erano in zona a fare dei controlli, potevano venire, insomma, se facciamo una convenzione per mangiare. Io ho un locale. Ah, ok, tu hai un bar. Detto, sì, un locale. Ho detto, va bene. Dopodiché mi hanno detto, noi siamo la tributaria, però noi avremmo bisogno di una ricevuta, di una cifra, che è quella che loro rimborsano, anche se noi però abbiamo, insomma... Consumato di meno. E io a quel punto ho detto, sentite, però non mi sembra molto regolare. No, però si può vedere, insomma... Insomma, vabbè, hanno pranzato, dopodiché alla fine hanno fatto tra l'altro un pranzo per quella cifra, per cui non ho avuto il problema di dover fare niente, che alla fine mi hanno detto, beh, comunque se ci dovessimo rivedere, noi alla fine organizzeremo anche una cena, chiaramente sarebbe gratuita, al che il mio socio è intervenuto e ha detto, signori, noi la beneficenza la facciamo in chiesa. Sì. Io non li ho più visti, so che sono nella zona, perché comunque so dove stavano facendo questo controllo, ma li ho più visti. Qual è, Paolo, si può dire il nome del tuo locale, o a questo punto hai il terrore di dire? No, guarda, diciamo che è lontano. Paolo, guarda, purtroppo sei sparito improvvisamente con... Niente. Paolo, guarda, mandami un sms che lo leggo più tardi, perché proprio sembravi in un forno a microonde. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella fotografia di oggi invece siamo in una stanza che potrebbe essere uno studio di registrazione, ma credo che sia per lo più la stanza di qualcuno, perché ha proprio il tipico aspetto della cameretta, con una sedia recuperata, una sedia da una cucina probabilmente, un'altra invece da ufficio un po' sfondata. C'è un computer appoggiato su un banchettino minuscolo, c'è una specie di tastiera, credo, con un mini mixer e delle casse appese dappertutto. Quindi è uno che fa musica e probabilmente uno giovane che studia. Francesco Valente, 27 anni. Una stanza che ricorderai per tutta la vita. La stanza che ha visto la musica, le date, le dormite lunghe e le notti insonni, il sesso e l'amore, i tornei di PlayStation, le ore sui libri di diritto. Insomma, una stanza da universitario. Io sono qui. Grazie Francesco, andate a vedere la foto. Io sono qui alla pagina di Io sono qui sul sito di Radio 24, radio24.it. Anche se non ho capito quello che dice Francesco, Viola sicuramente lo sa. Una stanza che ricorderai per tutta la vita. Ah, inteso, è un tuo narrativo. Cioè la stanza che credevo io, cioè, perché io l'ho provato a capire se me la ricordavo, ma non mi pareva. Io in video vorrei essere Tiziano Bonini e bullarmi delle sue capacità conoscitive musicali. 349-238 per dire, per dirne uno. 349-238-6666. Ciao Matteo, invidio la ragazza tedesca che ho frequentato di nascosto per 2 anni. Entrambi fidanzati, mi ha chiesto di essere suo testimone di nozze. Io ho rifiutato, Claudio. Però Claudio non capisco perché la invidi. Per il coraggio forse o per la faccia tosta. Facciamo anche un'errata corrige, perché dove l'ho messo il foglio? Prima sorridevo del fatto che la pigrizia fosse uno dei 7 peccati capitali, e invece è proprio così, perché è l'accidia. L'accidia è semplicemente ha un altro nome. E ringrazio anche Edda che fa un resumé: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia e accidia. Voilà! I 7 peccati capitali. 800240024, andiamo a sentire Stefano dalla provincia di Savona. Pronto Stefano? Ciao Matteo. Ciao, grazie innanzitutto per essere qui Stefano. Grazie a te. Però diciamo tu appartieni a quella categoria di folli che hanno come Guerre Stellari, in Guerre Stellari una sorta di riferimento per la vita, mi sembra di capire. Esatto, sì. Perché dimmi chi vorresti essere tu. Beh, Ewan McGregor, che ha fatto Obi-Wan Kenobi, è come nel film essere John Malkovich, soltanto cambiare attore. Certo, come essere Gigi Garanzini. Senti, però lui ha fatto Obi-Wan Kenobi nella seconda serie dei 3 film, giusto? Sì, in 3 film l'ha fatto. Cioè, ma come si chiama, scusami, la seconda serie dei 3 film? Il prequel sarebbe, però devi contarli come episodi, quindi l'episodio numero 1 è... La minaccia fantasma, poi c'è la guerra dei cloni, la vendetta dei Sith, e poi quello che noi conosciamo come Guerre Stellari, in realtà si chiama La Nuova Speranza, poi c'è L'Impero colpisce ancora e Il Ritorno dello Jedi. E qui è nerd puro Stefano, cioè uno che li sa... Anche qualche peli a Chewbacca. No, va benissimo così. E ricordiamo anche che tu daresti qualsiasi cosa per avere la spada laser, quella vera. Giusto? Quella vera, sì. Quella vera. Per adesso mi accontento di quella, la copia. Ah, perché ce l'hai ovviamente. Certo, sì. Ma è quella che fa anche zzzz, quando... La FX Lightsaber si chiama il modello. Ma tu vai ai raduni, fai quelle cose che si fanno tra maniaci. Quando capita, sì. Solo quando capita, non è che te li vai a cercare proprio Stefano. No. Ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie, altrettanto. Ciao, grazie. Martina mi scrive: invidio una mia amica Anna, che non è bellissima, ma è carina. Vabbè Martina, già c'è qualcosa che non va. Ma è carina e affascinante, ha un sorriso e quando parla è molto carismatica, crede in se stessa, si piace. Ma Martina, magari bisognerebbe sentire lei, perché di solito la sensazione da fuori è sempre un po' diversa. Andiamo provincia di Modena. Debora, pronto Debora? Sì, pronto. Un attimo, ti tolgo la voce. Okay. Brava, toglivi la voce perché già ti sentivo. Sei andata a recuperare il figlio? Sì, sono andata a recuperare il figlio e vedere la famosa maestra. Perché tu sei invidiosa della sua maestra? Sì, cavoli. Ma perché? Io invidio la sua tranquillità. Cioè, gli parli, lei ti tranquillizza. Io ci sono sempre agitatissima. Secondo me è fantastico, veramente. Che cosa fai nella vita, Debora? Lavoro anch'io con i bimbi. Ah, vabbè, quindi è un'invidia professionale più che umana. No, è proprio a livello personale, proprio un'invidia positiva. E quando l'hai detto mi è venuto da ridere e la prima persona a cui ho pensato è stata lei, che vorrei proprio essere come lei. Che cosa fai con i bambini esattamente? Sono un'educatrice di asili nido. E lei è la stessa cosa? No, scuola dell'infanzia. Cioè scuola materna? Sì, esatto. Cioè tuo figlio quanti anni ha? 5. Bene, quindi diciamo la vera crisi tu ce l'avrai quando tuo figlio ti dirà preferisco la maestra. No, dai, la sua preferita, dunque guarda, è già... Benissimo, quindi il livello di invidia è già altissimo. No. Deborah, ti faccio togliere le quattro frecce e ti faccio andare a prendere tuo figlio. Ok, grazie. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, ciao, provincia ciao. Di Milano, ce la facciamo, sì, andiamo da Fulvio. Pronto, Fulvio? Matteo, ciao. Ciao, dove sei? Ciao. In questo momento, guarda, sono un posto strano, sono a Legnano che sto cercando di trovare dei moduli per parcheggiare delle biciclette. Stranissimo. No, aspetta, quindi... cosa vuol dire? Per parcheggiare delle biciclette dove? No, ti spiego, perché nel mio condominio ci sono un sacco di biciclette che sono lì da tanti anni. Allora sì. Mi è venuto in mente di fare una cosa, vedere se c'è un proprietario, quelli che non hanno un proprietario, alla fine comunque buttarle tutte nel cortile, fare un'asta sostanzialmente per chi le vuole prendere e il ricavato darla a qualche associazione di volontariato. Ah, ho capito, quindi tu stai cercando, i moduli sono le griglie, come si chiamano? Esatto, ne approfittavo, visto che liberiamo rastaglia. Tutte le bici vecchie, di anche di fare un cambiamento, perché sono vecchissime, e fai mettere delle griglie, sai, per partire. Chiaro, ma Fulvio, scusami, ma alle 4:40 del pomeriggio, tu che puoi andare a cercare delle griglie per le biciclette, cosa fai di lavoro nella vita? Io sono fortunato, perché io ho un'attività in proprio, e ero da un cliente, siccome ho finito un po' prima, mi posso permettere questa piccola divagazione. Magnifico. Perché dopo 20 anni mi hanno incastrato come consigliere di un condominio, porca, ce l'avevo fatta fino adesso. Sì, scusami, consigliere di condominio, non basta l'amministratore nel condominio? Sì, ma i consiglieri sono quelli che poi sostanzialmente devono, cioè, siccome io poi sono un appassionato della bicicletta, questo si chiama. Ah, ok. Ti hanno beccato subito. Tu, scusami, che vai sempre in giro con quel completino orribile, torni a casa sudato. No, caro, io sono un ciclo viaggiatore, nel senso che io prendo la bici con mia moglie, quattro borse e facciamo i turisti. Sono andato in Tunisia, a Berlino, Copenaghen. Tua moglie sarà felicissima. È lei che mi spinge. Ah, è lei. È la del gruppo. Benissimo. Dopo esserci fatti un minuto e mezzo di fatti tuoi, in 20 secondi mi dici qual è la persona che invidi. Una cosa che risale al liceo, molto vecchia. Questo mio compagno di classe, che francamente è sempre stato un passo avanti. Aveva sempre il momento giusto, le riunioni, aveva sempre qualcosa da dire, era un riferimento. Poi ha preso 60 alla maturità, eccetera, eccetera. Per fatta è diventato adesso addirittura... si può dire, insomma, direttore generale per il garante dell'energia. Quindi insomma è un personaggio noto, già prometteva bene all'inizio, però mi sembra di capire. Porco camera, non c'avevo dubbi, sai, 60, ma poi un 60 alla maturità, dove però passati i compiti. Però Fulvio lui non è consigliere di condominio. No. Sai che cos'è la cosa bellissima? Che invece ho scoperto adesso, poi chiudo, grazie, sì, che lui praticamente invidiava me, perché è venuto ad ascoltarmi in uno spettacolo che ho fatto, un tributo di Pierangelo Bertoli, sì. E quando non sapevo neanche che venisse, è venuto, mi ha abbracciato e ha detto, ma io non so come fai tu sul palco e poi fare un tributo a Pierangelo. E quindi invidia contro invidia si annulla e siamo tutti persone felici. Fulvio, ti saluto e grazie mille. Grazie Matteo. Ciao, buona giornata. Ciao. Credevate che l'avessi abbandonato e invece no, il racconto che vi racconta, quello di oggi, si intitola Jeans. Era partito per la colonia con il massimo dell'entusiasmo. 11 anni, cuore liscio e puro. La prima volta fuori casa. Per pochi giorni, certo, ma senza i genitori. Solo gli amici, quelli del quartiere, e poi altri che avrebbe sicuramente conosciuto. E soprattutto le ragazze. Finalmente le ragazze. Che per il piccolo Angiolino erano state fino ad ora frusciare di capelli e di gonne. Compiti svolti assieme nella piccola biblioteca cittadina, alito di dentifricio e caramelle, guance arrossate per l'imbarazzo e poco altro, poco più, comunque quello che bastava. Pioveva, era domenica, il giorno della partenza. Vivo d'Orcia, una casa nel bosco, quella era la destinazione. Angiolino salutò i genitori sul limitare del cancello. Li voleva fuori dai confini del suo piccolo sogno, ma senza essere con loro sgarbato. E più per una questione di impaccio che di rammarico. Evidentemente Carla e Martino avevano inteso. Gli passarono la sua valigetta in pelle, così seria per un bambino, e un tantino grande per quel poco di magliette, calzoni, mutande e calzini che si era portato. E poi lo guardarono entrare lento e sereno. Angiolino non poteva trattenere il sorriso. Si plasmava da solo. Le sue labbra erano portate naturalmente ad incurvarsi verso l'alto. Io sono qui, @radio24.it, il racconto che vi racconta, il progetto sta crescendo, continuate a mandare i vostri racconti. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?